Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi, che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Bentornati in studio di Lucciole nelle tenebre. Abbiamo appena sentito i ricordi e le memorie della strage di Capaci da parte di persone qualsiasi. E siamo in studio Stefano, Benedetta, Giulia. Oggi parleremo appunto delle stragi del 92 e del 93 e delle stragi di Capaci, Via D'Amelio e quelle continentali. Ma prima di parlare di questo vi intratteneremo con un po' di musica. Vai Benedetta. Sì, è la canzone dei T-Rex, Children of the Revolution. Children of Revolution e T-Rex, bentornati in studio. Adesso cominciamo con questa puntata. Vai Giulia! Il 23 maggio Giovanni Falcone stava tornando da Roma. Lungo lo svincolo di Capaci è stato ucciso insieme alla sua scorta e a sua moglie. Ricordiamo magari i nomi della scorta. Certo, sono morti con lui Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. E poi la moglie, appunto, Francesca Morvillo. Ma io non so chi è Falcone, chi è? Falcone era un magistrato che ha lavorato nel pool antimafia fondato da Rocco Chinnici e insieme anche a Paolo Borsellino, e questo negli anni 80, ed è stato colui che insieme appunto a Borsellino ha istruito il maxi processo. E successivamente poi ha continuato a lavorare a Palermo sempre sulle grandi inchieste di mafia, e poi dopo è passato invece a lavorare a Roma proprio per tentare di portare a livello nazionale quello che aveva costruito con Borsellino a Palermo, quindi diciamo di creare appunto una procura nazionale antimafia. Sì, un'organizzazione, proprio perché quando si parla di mafia si parla di organizzazione, intento un'organizzazione fatta in modo sì gerarchico, sì, possiamo dire che è il termine corretto, e quindi per controbattere a un'organizzazione era necessaria un'organizzazione facsimile. No, la cosa che stupisce sempre me è che quando muoiono le persone poi vengono ricordate come grandi eroi, però in vita poi sostanzialmente vengono messi in uno stato di isolamento e sì, screditati pubblicamente, e questo era successo anche a Falcone. Sì, con la faccenda del CSM, quando avevano dato la carica di procuratore a Meli invece che proprio a Falcone, nonostante Meli non si fosse mai occupato di mafia, e quindi avevano privilegiato una mentalità più antica, cioè diciamo la carriera, cioè l'anzianità di Meli alla esperienza di Falcone. E che invece, ricordiamo, è sempre stato estremamente innovativo nel suo operato. Certo, e infatti Borsellino, quando ricordava Falcone, raccontava sempre che Falcone era un po' morto già da questo momento, cioè quando lo avevano isolato definitivamente con questa scelta. E con le continue anche critiche poi di un'intromissione nel mondo politico. Il collaboratore e amico era Paolo Borsellino. Paolo Borsellino muore invece il 19 luglio del medesimo anno, quindi 57 dopo, sì, giorni, quindi un tempo irrisorio, e ucciso sotto casa della madre. Insieme a lui morirono Walter Eddy, Max Cosina, sì, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano e Claudio Traina. E poi c'è un sopravvissuto. Sì, perché stava parcheggiando. Esatto, che è Antonino Bullo. La cosa che colpisce sulla morte di Borsellino è che qualche settimana prima, questo è un evento che è stato raccontato da Antonino Cabonnetto, lui aveva chiesto di rimuovere tutte le auto sotto casa della madre. Però questa richiesta non era stata neanche guardata, insomma. Sì, ma anche poi in altre interviste emerge questa sensazione di Borsellino di aver capito di essere stato tradito. E infatti l'episodio di Via D'Amelio è il primo, come dire, sì, appunto, episodio più reso pubblico in cui si intravede una compartecipazione chiaramente dello Stato all'uccisione di Borsellino. Qualche mese fa, o comunque nei tempi recenti, la frase proprio di Rina che disse non l'abbiamo voluto noi, ma è una cosa che avete voluto voi, quindi praticamente l'abbiamo fatta su vostra richiesta, ha lasciato intendere proprio che l'uccisione di Paolo Borsellino fosse voluta anche dalle istituzioni. Adesso vi lasciamo con una canzone che ha scritto Jovanotti proprio negli anni delle stragi, proprio nel 92, Cuore. A dopo. Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta. hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciate ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi, i ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida. Bentornati in studio, riprendiamo la nostra trasmissione. Finora abbiamo parlato delle stragi, però dato chiave ecco, di quegli anni è stato questo continuo scambio di richieste ecco, da parte di Cosa Nostra nei confronti dello Stato per far sì che ulteriori stragi non venissero effettuate, di cui poi parleremo. Queste richieste sembrano fossero contenute nel cosiddetto papello, che appunto era questa elencazione di richieste, tra cui la revisione delle sentenze del maxi processo, il 41 bis, la legge Rognoni la Torre e un'altra serie di richieste, un documento che poi la cui autenticità non è mai stata verificata. Tuttavia alcune di queste richieste, proprio dopo le ipotetiche stragi ecco, del 93, ipotetiche perché alcune non sono state fortunatamente fatte, sono state richieste esaudite. Ad esempio, mi pare quasi 300 di quelli che erano stati condannati al maxi processo, poi non gli viene rinnovato il 41 bis, che invece ogni tot andava rinnovato. Alcune delle richieste di questo papello sono state esaudite a seguito di alcune stragi che sono veramente accadute. Sì, nel 93 c'è stata la strage di Via dei Georgofili a Firenze, che ha provocato 5 vittime. Poi c'è stata la strage a Milano, che anch'essa ha provocato 5 vittime. C'è stato poi il tentativo di eliminare Maurizio Costanzo in Via Fauro a Roma e ci sono state altre stragi minacciate, come quella di far saltare la Torre di Pisa oppure di mettere una bomba allo Stadio Olimpico, che non si sono poi verificate, e questo può essere visto anche come un tentativo di compromesso tra Stato e mafia. Esatto. Infatti lo stesso giornalista Gomez dice che quando c'è il silenzio c'è trattativa. Una trattativa che non era nuova nel 92-93, era una cosa che aleggiava già negli anni 80 e aleggiava attorno alla figura di Salvatore Lima. Salvatore Lima è un presunto colluso. Sì, era per così dire, era la facciata politica della rappresentazione mafiosa del governativo. Negli anni 80, durante il periodo della Democrazia Cristiana, era un braccio destro di Andreotti e nel marzo 1992 è stato ucciso. Probabilmente questo ha un significato politico molto forte, ovvero la mancanza di fiducia della mafia nei confronti della Democrazia Cristiana. È una cosa che sposta molto gli equilibri in gioco all'interno dei giochi politici. E infatti si pensa e si presume, da alcune analisi fatte successivamente, che la mafia stesse puntando sul Partito Socialista di Bettino Craxi, ma non ha avuto il tempo, con lo scandalo di Mani Pulite, non ha avuto il tempo di alimentare questo potere del Partito Socialista Italiano. Visto che ne hai menzionato, io farei un breve inciso di quella che è stata Mani Pulite, o conosciuta anche come Tangentopoli. Ha avuto inizio nel 92-93, insomma, comunque tutto in quegli anni, al nord però, a Milano precisamente, un'indagine condotta da Antonio Di Pietro, che allora era ancora magistrato, e di questo scambio di tangenti, in cui poi i reati erano concussione, corruzione e finanziamento illecito a partiti, che sconvolse non solo i grandi partiti riconosciuti nazionali, ma era un meccanismo, quasi una cultura, quella di dare le tangenti, intrinseca anche nelle piccole e medie imprese e piccole istituzioni locali. E fu lo scandalo Mani Pulite scoppia nel 92-93, ma c'erano già dei carteggi tra Di Pietro e il pool antimafia in precedenza, durante anche lo stesso maxi processo, perché si indagava già a quei tempi. Guarda caso, sia il processo Mani Pulite che il processo del pool antimafia, le sentenze date in appello del pool antimafia, sono state interrotte. Questo fa venire un grande punto interrogativo. E non è il solo, io ricorderei anche la scomparsa dell'agenda. Ah sì, l'agenda rossa. L'agenda rossa di Borsellino, che teneva in macchina, poi dopo l'uccisione e l'esplosione questa agenda è scomparsa e tuttora non si sa che cosa contenesse. E la domanda, non so a voi, che mi viene spontanea, chi è stato? La domanda non ha ancora una risposta e magari lo sapremo. Vi lasciamo con Green Onions dei Blues Brothers. Vi salutiamo, ciao! My little brother Jake, but right now I'd like to talk a little bit about this tune you're hearing. This is, of course, the Green Onions tune. It was a very, very big hit in the early 60s in this country, and of course, it was composed and recorded in Memphis, Tennessee, right here in the United States of America. And you know, people, I believe that this tune can be equated with the great classical music around the world. Now you go to Germany, you got your Bach, your Beethoven, your Brahms. Here in America, you got your Fred McDowell, your Irving Berlin, your Glenn Miller, and your Booker T and the MGs, people. Another another example of the great contributions in music and culture that this country's made around the world. And as you look around the round world today, you see this country spurned. You see backs turned on this country. Well, people, I'm going to tell you something. This continent, North America, is the stronghold. This is where we're going to make our stand in this decade. Yeah, people. I got something to say to the State Department. I say take that archaic Monroe Doctrine and that Marshall Plan that says we're supposed to police force the world and throw it out. Let's stay home for the next 10 years, people. Stay right here in North America and enjoy the music and culture that is ours. Yeah, I got one more thing to say. I'm just talking about the music, people, and what it does to me. And that is, as you look around the round world, you go to Soviet Union or Great Britain or France, you name any country, everybody is doing flips and twists just to get into a genuine pair of American blue jeans and to hear this music. And we got it all here in America, the land of the Chrysler 430 cubic inch engine. Green onions!